sono le persone abbandonate dentro le canzoni, o le battaglie combattute fra i fondali più bui, sono le bandiere rubate dal vento, o le coperte sopra ogni bambino, sono le lingue che non hanno conosciuto il deserto, o le barche che non hanno mai affrontato il mare aperto, sono le conseguenze di decisioni mai prese, o le stelle che oltre le nuvole rimangono appese, sono il freddo che dorme sulle campagne alle prime ore del mattino, o l'urlo lontano di un treno che corre senza freno, sono conteso fra due braccia che non hanno forza, sono poca speranza, fra due orecchie che non vogliono sentire, fra due mani che no, non vogliono toccare, fra due occhi che no, non vogliono vedere, fra due gambe che no, non sanno come correre, fra due spalle che no, non si possono poggiare. Sono contento se non torno, sono contento e non piango. Sono caviglie disegnate di sangue e sudore che camminano confuse nella nera, nera stazione. Sono all'attesa di qualcosa che non torna, sono un pensiero che è rimasto sulle tue labbra, sono la radice che si cela sotto ogni problema, sono la fine inaspettata di una razza perfetta, sono sotteso nel senso di ogni teorema, il crocifisso appeso a questa di mancata vendetta. Sono contento se non torno, sono contento e non piango. Sono contento se non torno, sono contento e non cambio. Due orecchie che non vogliono sentire, fra due mani che no, non vogliono toccare, fra due occhi che no, non vogliono vedere, fra due gambe che no, non sanno come correre, due spalle che no, non si possono poggiare. Sono contento se non torno, sono contento e non piango.